La televisione, con questo suo recapitare frenetico di persone da rendere personaggi alla belle meglio e più in fretta che si può, la televisione è il trionfo della didascalia. E la didascalia, come dice la parola, insegna. Messa sotto una concia porzione di persona, insegna essenzialmente il suo nome ed il suo cognome, la professione, allorché si presume che ai più la persona in questione debba proprio essere ignota. Quando la presenza si mantiene a lungo sullo schermo, la didascalia la fanno diventare intermittente, come a rassicurare i più tonti che quello di prima continua a essere proprio lui e nessun altro all'infuori di se stesso. Orbene, sarà stato constatato un po' da tutti che in questi ultimi tempi si è rovesciato sugli schermi televisivi più diversi una colata gigantesca di cristianesimo verbale. Non c'è più pio uomo di chiesa, a maggior ragione se assiso nelle più alte, nelle più celesti gerarchie, che non abbia qualcosa da dire ai fedeli televisivi. 10 minuti là, 5 qui, un'apparizione, lo spot, l'intrattenimento colloquiale, il pensierino della sera, l'abbraccio ecumenico della notte. Manca solo la rubrica «Ascolta, che siano i carabinieri». E infatti, e qui ci siamo, è infatti mia strenua convinzione che non ci fosse stata l'operazione Mani Pulite, di tutta quest'orgia di coscienze pulite se ne sarebbe fatto a meno. C'è bisogno di chetare quel popolo di brava gente che si è sempre digerito tutto e che questa volta magari potrebbe anche non essere più disposto a farlo. C'è bisogno di rasserenare gli animi e benedire i mansueti, dimostrare che ci sono bacchettate sulle dita per tutti, che c'è un potere incorruttibile che per fortuna pensa alla nostra pace sociale. C'è bisogno, insomma, di più preti e meno politici. Non fa niente se fino all'altro ieri andavano a braccetto e se attorno al pane nostro quotidiano, che era diventato loro, dividevano amorevolmente. Non fa niente. Tanta cristianità ridotta a spettacolo per mettere una pezza sugli sbrighi sociali del regime fa sinceramente pena. Ed è dunque comprensibile come anche un testori sdegnato dal pulpito televisivo veda nel ritorno alle catacombe l'ultima possibilità di salvezza per quella religione che i suoi ministri vendono a chi che sia o fra che sia. Fra questi, annunciato dal gran credito che si guadagna colui che cede per ultimo, c'è il ministro Cardinale Martini. Non sono stato a sentirlo granché, ma non mi sembra che fino ad ora abbia fornito prestazioni strepitose. Non sono stato a sentirlo anche perché sono stato attratto dal particolare tutto visivo della didascalia che alle sue fattezze insiste nell'associare il suo riverito nome. Non si tratta infatti di una didascalia normale, no. C'è sì il solito riquadrino rettangolare, c'è sì il suo nome ben leggibile, il tutto è posto centralmente, in basso, come di pragmatica, ma nello sfondo della didascalia, in quella parte cioè che per diversità di colore deve far risaltare il nome, c'è qualcosa di nuovo e di fulgido. Un colpo d'ala di quel laborioso processo creativo che è riuscito a coniugare la televisione e la religiosità. Gli sfondi, vedete, di solito gli sfondi sono compatti, proprio perché devono far risaltare qualcosa che in grazia della loro conformazione diventa più facilmente un distinto. Tutti gli sfondi hanno questa caratteristica. Tutti, ma non quello predisposto per il nome del cardinale Martini. Perché quello è attraversato da una miriade di segmentini chiari, da un tratteggio apparentemente disordinato e luminoso. Più che una targa di supporto, sembrano tenebre irradiate misticamente. Lui parla e che dica in quelle immagini c'è un riverbero dell'anima. Si tratta della logica del maiale, volendo, applicata alle didascalie, no? Dopo il nome, i titoli accademici, la professione, ecco, utilizzato anche lo sfondo su cui sono scritti. Non si butta via nulla e si avvalora di più.